cambia il destino in un attimo, ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere. L'irruente passione per cui un istante è sbocciato un eterno amore. Ora in onda, Note, a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di CRM Happy Radio. Innanzitutto una notizia di servizio: questa sera alle ore 20, diretta streaming da Licata per l'incontro di basket tra la Zanella Basket e la studentesca Licata, valevole per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C regionale di basket. Un in bocca al lupo alla squadra del presidente Salvatore Marsala, ma il mio saluto più grande, il mio grazie all'architetto Salva Manginelli, ospite in studio, e ci parlerà di un'iniziativa davvero interessante, un'iniziativa che si svolge in tutto il mondo, ma è stata lei a portarlo a Cefalù e a sensibilizzare tantissime persone alle tematiche ambientali. Abbiamo visto tantissime cose, ma ne parleremo in seguito. Intanto voglio dirvi che sto arrivando proprio in questo momento, inviato da CRM e dal mio giornale, dal Museo Mandralisca, dove si è tenuto un incontro tra Legambiente, Parco delle Madonie, il personale del Museo Mandralisca, il suo direttivo, il suo CDA, ma c'era presente l'assessore regionale ai beni culturali. Il nostro sindaco è stato chiarissimo: noi non vogliamo soldi per spese superflue, noi vogliamo i soldi per mantenere il personale, per mantenere aperto questo che è il gioiello della nostra città, assieme alla cattedrale col suo pantocratore. Architetto. E non solo della nostra città, il Museo Mandralisca è un gioiello, è patrimonio dell'umanità per ciò che contiene, per ciò che rappresenta, quindi non vale solo per i cefaludesi o per la città di Cefalù. Architetto Manginelli, dobbiamo salvaguardare l'ambiente, ma dobbiamo salvaguardare anche i beni culturali. Che una sua impressione prima di addentrarci nei dettagli sull'Earth Day, sul Museo Mandralisca? È assolutamente quello che stavo dicendo prima, cioè che il Museo Mandralisca rappresenta un gioiello, prendendo spunto da quello che dicevi tu, Giacomino, non solo per i cefaludesi ma anche per tutto il mondo, perché con le opere che contiene all'interno e per quello che rappresenta a livello artistico e a livello culturale, va sicuramente salvaguardato e insomma è aperto a tutto, è accessibile a tutti. Sicuramente le notizie che arrivano purtroppo non sono delle migliori, perché il personale potrebbe anche chiudere a maggio, mi diceva sottovoce qualcuno, perché i soldi sono arrivati soltanto per coprire una minima parte degli stipendi arretrati, ma non è importante i soldi che arrivano per coprire il passato, ma ad avere soldi per garantire l'apertura futura. Nel futuro, esatto. E i tempi non sono dei migliori, ma speriamo che nell'incontro anche di oggi che si possa portare qualcosa di... Ma veniamo al Earth Day, giornata della Terra. Si doveva svolgere sabato, domenica e lunedì scorsi, però ci sarà un prolungamento del programma, un prosieguo del programma con delle attività davvero interessanti. Intanto, che cos'è questa manifestazione? Lo spieghiamo per chi ci sta ascoltando. Sì, sicuramente. Allora, Earth Day 2013 Cefalù, siamo alla prima edizione, è stata creata in occasione della 43esima giornata mondiale della Terra, che in tutto il mondo si festeggia dal 1970, ed è una giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite proprio per promuovere la salvaguardia della Terra e sensibilizzare, coinvolgere e informare cittadini e associazioni e istituzioni sulle problematiche ambientali. Quindi prendendo spunto appunto da quello che ogni anno Earth Day Network, che è l'ONG internazionale che celebra la giornata della Terra il 22 aprile, quindi un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, e mettendomi in contatto con Earth Day Italia, che è il partner italiano di Earth Day Network, è venuta fuori questa manifestazione che io ho pensato articolata in tre giornate: sabato 20, domenica 21 e lunedì 22, che era appunto la giornata mondiale della Terra. E devo dire che sabato e lunedì il programma è riuscito a essere benissimo. Purtroppo domenica le avverse condizioni meteorologiche ci hanno costretto a posticipare tutto a domenica prossima, 28 aprile, e quindi Air Day continua domenica prossima. Però ricordiamo che tra le manifestazioni di domenica è rimasto il concerto di Milici e Vigè Palermo, sì, Giuseppe Milici e Vigè Vincenzo Palermo, grandiosi. Sono stati grandiosi al Teatro Comunale, malgrado la contemporaneità con la partita Milan-Juventus, tantissimi appassionati sono venuti per ascoltarli, perché sono due musicisti a livello internazionale. Musicale, sì, oltretutto sì. Io conoscevo poco come voce solista Vincenzo Palermo. Sì, sì. Lo conoscevo come grande appassionato e presidente del Fala Brasil di Palermo, ma è come chitarrista, ma ha una voce davvero straordinaria. Milici poi lo conosciamo tutti, armonicista di fama internazionale. Sì, lui raccontava che ha suonato con i migliori musicisti di tutto il mondo e nelle migliori band, diciamo, in circolazione, e questo dobbiamo ringraziare Salva Manginelli, grazie, che grazie. Ci ha offerto questo momento musicale. Ma devo dire che Giuseppe è stato veramente molto disponibile, appena insomma gli ho presentato il progetto si è esaltato tantissimo, insomma ci ha creduto, come ci hanno creduto tra l'altro tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione, a partire dal sindaco Rosario Lapunzina, agli sponsor e a tutti coloro che hanno magari collaborato. Poi ricordiamo, assolutamente sì, meritano. Quando si parla della Terra, architetto Salva, c'è qualche decalogo, qualche cosa che è allora, giusto che i nostri radioascoltatori... Motto di Earth Day Italia è Every Day is Earth Day, in effetti, cioè ogni giorno è il giorno della Terra, quindi ogni giorno si può festeggiare il pianeta e salvarlo compiendo dei piccoli gesti green, dei piccoli gesti verdi, che rappresentano tra l'altro una sorta di promemoria che Earth Day Italia fornisce in occasione della giornata mondiale della Terra. Sono delle azioni ecoresponsabili che riguardano i nostri comportamenti quotidiani, legate in modo particolare alle nostre scelte d'acquisto ed alimentari, l'impiego di energia e mezzi di trasporto, ad ogni piccolo gesto all'interno della nostra vita quotidiana. Secondo una ricerca dell'ONU, ogni anno distruggiamo una foresta grande quanto la Grecia. Questo è un dato riportato tra l'altro dal presidente di Earth Day Italia, che è Pierluigi Sassi. Nel mondo ci sono 7 miliardi di persone, se ognuno di noi compie un piccolo gesto green, credo che abbiamo la forza e la possibilità veramente di invertire questa tendenza autodistruttiva e cercare di salvare seriamente il nostro pianeta. Le cronache ci dicono che la ricchezza è in mano a pochissimi, che determinano l'andamento dell'intera economia, ma anche della salute del nostro pianeta. E infatti, a proposito di questo, io volevo suggerire due filmati che tra l'altro ho anche proposto nell'incontro che abbiamo tenuto nella sala Capriate lunedì pomeriggio, il 22 aprile, che servono proprio per illuminare e informare e chiarire quello che sta succedendo, quello che abbiamo fatto finora e quello che possiamo fare per cambiare le cose. E sono uno il film documentario Om, la nostra terra, di Jan Arthus Bertrand in collaborazione con Luc Besson, che è un film realizzato nel 2009 che appunto fa una fotografia dello stato delle cose, che ci fa capire a che punto abbiamo portato il nostro pianeta e quello che noi possiamo ancora fare per invertire questa tendenza. Sì, perché il messaggio forse di fondo è quello che ancora siamo in tempo, siamo sull'orlo del baratro, però se 7 miliardi di noi anche meno riusciamo a impegnarci nei piccoli gesti che adesso comunque se mi consentite avrò il piacere di elencarvi, è un piacere nostro poterli ascoltare, possiamo fare ancora qualcosa. E quindi questo è Home, lo potete trovare su YouTube, è un film di un'ora e mezza, mi assicuro che si fa guardare tutto d'un fiato come un buon libro, e poi l'altro è La storia delle cose, The Story of Stuff di Annie Leonard, che praticamente espone in modo chiaro ed efficace l'attuale sistema di produzione delle cose, la cosiddetta economia dei materiali, basata sul sistema consumistico, quello che ci sta, come noi veniamo influenzati dalla società del consumismo. E come possiamo appunto anche in questo caso cercare di controbattere e reagire a, per cambiare le cose. Magari poi accenderemo a quello che possiamo fare in concreto noi nel nostro piccolo qui a Cefalù, anche qui a Cefalù, perché magari qualcuno penserà non è che noi possiamo fermare l'abbattimento della foresta amazonica, ma invece possiamo con piccoli contributi. Però una foresta ogni anno grande quanto la Grecia è veramente è una responsabilità di tutti. Appunto. Allora, passiamo a queste 15 azioni green per aiutare il pianeta e iniziamo con l'alimentazione. Mangiare più frutta e verdura. Il ciclo di produzione di carne bovina è responsabile del 18% delle emissioni mondiali di gas serra. È qualcosa che dovrebbe veramente farci riflettere, oltre a favorire per il suo sfruttamento intensivo la deforestazione. Riciclare l'olio delle fritture o comunque usato in cucina portandolo alle isole ecologiche. Da 100 kg di olio usato se ne ottengono 68 di olio nuovo. Inoltre un solo chilo di olio usato disperso nell'ambiente inquina 1000 metri cubi di acqua. Ecco, un chilo di olio inquina 1000 metri cubi di acqua. Sì, spieghiamo velocemente che i gas serra sono quei gas tipo la CO2 che andando negli strati alti all'atmosfera impediscono al calore emesso per riflesso dalla terra di uscire fuori. Perfetto, quindi, e quindi c'è un, e quindi c'è l'innalzamento delle temperature globali, effetti che sono devastanti, li stiamo notando anche se non ci badiamo, anche con il clima che noi diciamo ormai è diventato pazzo. Esattamente, tanto è vero. E qui inserisco anche un altro discorso. L'assessore Laura Leonardis ha aperto nel comune di Cefalù l'ufficio unico patto dei sindaci e spieghiamo anche così, perché rientra pure all'interno di questo discorso dell'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, che cos'è il patto dei sindaci. Il patto dei sindaci è proprio un'iniziativa della comunità europea del 2008 in cui appunto si coinvolgono gli enti locali, le amministrazioni locali a promuovere un programma che tende ad abbattere le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera entro il 2020 del 20%. Questo è sostanzialmente anche il... Davvero interessante, speriamo anche tramite te di poter avere ospite la dottoressa assessore Leonardis. Siamo state assieme al Mandralisca fino a pochi minuti fa, ma non potevo invitarla visto l'impegno che aveva presso il museo. E consentitemi, a proposito di ambiente, il giro è lunghissimo, di salutare Serena Cesare che collabora con questa trasmissione, una studentessa di scienze naturali, oggi è fuori Sicilia per motivi di studio, di lavoro e di lavoro, e la salutiamo. Va bene, proseguiamo allora con le 15 azioni green. Abbiamo visto le prime due: mangiare più frutta e verdura, riciclare l'olio delle fritture. Passiamo a rifiuti e riciclo. Riciclare sempre il vetro. La raccolta differenziata del vetro permette un risparmio annuo in Italia pari a 400.000 tonnellate di petrolio. Sono dati che secondo me vanno appunto forniti per cercare di sensibilizzare. Salva, ricordiamo la lettera del nostro sindaco di questi giorni. Il sindaco diciamo che è quasi arrabbiato, ma nel senso buono, perché vuole assolutamente che si inizi sul serio questa pratica tra la gente di cominciare a differenziare, che non costa nulla, esatto. Non richiede granché di tempo, basta parte avere i sacchetti, parte da noi. Quindi riciclare sempre il vetro, perché abbiamo detto che la raccolta differenziata del vetro permette un risparmio annuo in Italia pari a 400.000 tonnellate di petrolio. Poi utilizzare solo batterie ricaricabili, si possono usare centinaia di volte in più rispetto a quelle usa e getta. Riciclare la plastica, ognuno di noi produce circa 30 kg di plastica ogni anno. Se questa plastica fosse completamente riciclata, in un comune di 100.000 abitanti si risparmierebbero 10.000 tonnellate di petrolio e carbone. differenziare farmaci, altrimenti in discarica possono dar luogo ad emanazioni tossiche ed inquinare il percolato. Inoltre, la presenza di antibiotici nei rifiuti può favorire la selezione di ceppi batterici resistenti agli stessi antibiotici. E poi i pneumatici. Una volta terminato il loro ciclo, possono essere immessi nuovamente in ciclo per gli utilizzi più svariati. È importante perché in Italia ne vengono scartati ogni anno 500.000 tonnellate, per un volume di oltre 3 milioni di metri cubi, che sarebbe l'equivalente di più di 6 stadi di San Siro colmi fino all'Orlo. Passiamo adesso alla... Lo raccomandiamo però di cambiare pneumatici quando sono logorate, perché è fondamentale camminare anche con per macchine. Per la sicurezza lo raccomanda la stradale, lo raccomandano le leggi. Esatto. Cambiate i pneumatici, però non li buttate in discarica, portateli nei centri specializzati di raccolta, come ci suggerisce l'architetto Mancinelli. Come vedete, sono delle piccole azioni quotidiane che ognuno di noi può compiere veramente per incominciare a cambiare le cose. Acqua. Verificare sempre che i rubinetti del bagno non gocciolino. Una goccia al secondo può significare centinaia di litri in un anno. Chiudere il rubinetto mentre ci insaponiamo sotto la doccia o mentre laviamo i denti, perché lasciarlo aperto per soli 4 minuti significa sprecare 50 litri d'acqua. 50 litri d'acqua in 4 minuti. Moltiplicato per 30 milioni. Voglio dire, anche al risparmio di acqua, energia, cioè possiamo veramente fare qualche cosa nel nostro piccolo. Passiamo adesso all'energia. Installare un monitor dei consumi energetici per verificare quanto si risparmia spegnendo tutti gli standby di televisori, DVD, decoder e disinserire dalle prese carica batterie vari. Se 100 persone durante la loro pausa pranzo spegnessero il computer, si risparmierebbero 15 kWh equivalenti a circa 8 kg di anidride carbonica in atmosfera. E invece sappiamo che il computer non si spegne mai, il caricabatterie è sempre attaccato, la televisione è sempre in stand-by, il decoder, tutti gli apparecchi. Io ho iniziato a farlo già da qualche anno. Anch'io ero quella che sprecava l'acqua quando si lavava i denti o faceva la doccia. Adesso invece mi sono abituata. È questione di abitudine comunque, l'importante è partire. Ecco, ma a proposito di abitudine, c'è la sana abitudine della pubblicità. Okay, che incombe, diamo la linea alla regia. era Eros Ramazzotti, mi suggeriscono dalla regia, ma l'avevamo riconosciuto in effetti. Il brano Terra Promessa, uno dei primissimi brani che ha contribuito al successo di Eros Ramazzotti, Una Terra Promessa. Architetto Manginelli, qual è questa terra promessa che si propone alle Art Day? È la nostra Cefalù, perché Cefalù la natura è di casa, quindi quale migliore luogo dove celebrare il pianeta Terra? Assolutamente da noi. Stavamo parlando di più che di un decalogo di 15 punti. Azioni green, azioni green. Responsabili, sì. Possiamo, possiamo Verde Italia, sì, sì, possiamo continuare a leggere perché sono davvero davvero interessantissimi. Eravamo arrivati quindi all'undicesima azione green, che se 100 persone durante la loro pausa pranzo spegnessero il computer si risparmierebbero, dicevamo, 15 kW equivalenti a circa 8 kg di anidride carbonica in atmosfera. Si può risparmiare energia anche nelle piccole pause di lavoro, impostando lo spegnimento dello schermo per inattività dopo 2-5 minuti. E poi abituarsi a non esagerare con l'uso del condizionatore quando fa caldo. Lasciarlo acceso di notte provoca un consumo inutile di circa 6 kWh, che è la stessa energia necessaria per guardare la televisione di casa per circa 60 ore. Incredibile. E poi il discorso della carta. Riciclare la carta sempre, perché per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi. La lunedì mattina è stata, come dire, celebrata la prima edizione di Adotto un albero nelle scuole elementari, in particolare nel giardino della scuola Botta. Ringrazio anzi il dirigente scolastico che ci ha dato la possibilità di poter... Il dottor Domenico Castiglia. Esattamente. E i bambini sono stati graziosissimi, molto partecipativi, e abbiamo appunto piantato questi alberi, un leccio e un carrubo. Quindi, diciamo, per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri di acqua e 7.600 kWh di energia elettrica, mentre per produrre una tonnellata di carta riciclata bastano, sempre tra virgolette, 1.800 litri d'acqua contro 440.000 litri di carta vergine e 2.700 kWh contro i 7.600 di energia elettrica. Quindi questi dati dovrebbero, insomma, aiutarci a capire un po' meglio quello che possiamo fare. Ci sono tantissime le cose dell'ordinario, le cose piccole che si possono fare, e come hai ben detto, accumulando tutte queste piccole iniziative si arriva a cose davvero straordinariamente grandi. Quindi, infatti, per questo il presidente dell'Air Day Italia, Pierluigi Sassi, diceva: se siamo in 7 miliardi, se ognuno di noi fa un piccolo gesto green già saremmo a metà dell'opera, come dire. Si è parlato molto di questi argomenti anche nel corso di conferenze che si sono svolte in occasione della manifestazione cefaludese. Sì. Cosa possiamo dire ancora sull'Art Day? Abbiamo detto, innanzitutto dobbiamo ricordare che ci saranno ancora delle iniziative da svolgersi. Sì, sì. Prima finisco, scusami Giacomino, finisco le 15 azioni prima, green, perché manca l'ultima, che è quella sulla mobilità. A parte, come dire, incentivare tutti a camminare a piedi il più possibile, perché fa pure bene alla salute. Ecco perché poi all'interno della manifestazione Air Day Cefalù 2013 è stata inserita l'esibizione sportiva a cura dell'Athletic Center, perché sicuramente anche lo sport fa parte di un modo di vivere sostenibile. Tant'è vero che anche Air Day Italia ogni anno organizza non solo campagne di sensibilizzazione ambientale, ma anche concerti. Quest'anno ci sono stati Fiorella Mannoia e Khaled a Milano, e maratone. Infatti diciamo che nel caso, insomma, speriamo ci sia la seconda edizione del 2013 Cefalù, cercheranno di organizzare la maratona anche coinvolgendo noi l'anno prossimo. Quindi vi dicevo, mobilità. Per gli spostamenti scegliere la bicicletta o i mezzi pubblici, perché 10 km percorsi in autobus invece che in automobile, sia privata che taxi, evitano l'emissione in atmosfera di più di 1,5 kg di anidride. E poi qui a Cefalù veramente è a misura d'uomo, quindi Cefalù è una città a misura d'uomo che ci permette di spostarci velocemente da un punto all'altro anche senza bisogno di uscire per forza con la macchina, e non solo per chi abita nel centro storico, ma scendere anche dallo Spinito al centro tutto sommato una passeggiata, naturalmente, e chi non se la sente, ci sono i mezzi pubblici che si possono ben utilizzare. Esatto, esatto. Oppure, riprendendo l'intervento dell'ingegnere Alessandro Brancati durante il convegno di sabato scorso sulle tematiche ecosostenibili, che ha parlato appunto di carpooling, cioè della condivisione di un mezzo per spostarsi da un punto all'altro della città. A proposito del convegno di sabato scorso, volevo ricordare che abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di avere la partecipazione dell'assessore all'ambiente del comune di Capanno, in provincia di Lucca, Alessio Ciacci, che ci ha illustrato in maniera molto semplice ed esauriente come è possibile applicare, con la buona volontà innanzitutto dei cittadini, un sistema di smaltimento rifiuti a partire dalla raccolta differenziata che funziona, perché a Capanno, anche se comunque è un comune di 46.000 abitanti se non sbaglio, è il primo comune italiano che è riuscito ad ottenere degli ottimi risultati sulla gestione dei rifiuti, tant'è vero che il coordinatore del centro di ricerca, del centro di raccolta rifiuti zero di Capannori, cioè Rossano Ercolini, ricordiamo che il 15 aprile è stato premiato con il Nobel per l'ambiente all'Opera House di San Francisco, quindi un italiano assieme ad altri 5 in tutto il mondo. Ma vogliamo ricordare anche tantissimi sindaci delle Madonie che sono riusciti ad ottenere risultati assolutamente prestigiosi, purtroppo nelle grandi città, e a Cefalù, e la lettera del sindaco lo dimostra, bisogna ancora lavorare tantissimo perché le esigenze sono tantissime, e sappiamo che, come hai ben detto, tutto dipende da noi, tutto sommato, quindi l'appello il sindaco l'ha fatto ai cittadini. Non dobbiamo aspettare sempre il discorso e la responsabilità solo alle istituzioni, perché in primis parte dipende da noi. Non è possibile mettere un vigile per ogni porta o un vigile dentro ogni nostra cucina. Bisogna, è una questione di coscienza civile, sì, e di responsabilità personale. A proposito di iniziative ecologiche sulle Madonie, non possiamo non ricordare la scelta degli asini di Castelbuono, o la scelta, sì, del sindaco Giuseppe Muffoletto di Gratteri, che ha voluto lanciare l'idea di trasformare l'illuminazione pubblica tutta in LED. Già ci sono gli studi dell'Università di Palermo svolti, e ci sono i progetti a buon punto già avanti, sono tutte iniziative. E poi oltretutto questi due comuni sono quelli che mi vengono in mente, ma anche Snello, Le Petralie, Marineo, Alco, sono dei comuni che hanno raggiunto risultati eccellenti, sì, sì. E i complimenti vanno quindi all'amministrazione, ma anche ai cittadini, e noi vogliamo insistere sui cittadini perché molto dipende da noi, dobbiamo collaborare. Buona parte dipende da noi, infatti per questo ci tenevo anche oggi a enunciarvi queste 15 azioni green ecoresponsabili. A proposito del convegno, comunque, già che ci sono, ne approfitto, sì, e ringrazio anche tutti gli altri che sono intervenuti, a partire appunto dal sindaco Rosario Lapunzi, al presidente del consiglio il professor Antonio Franco, al presidente della commissione ambiente dell'ARSA, assemblea regione siciliana, il dottor Giampiero Trizzino, al presidente dell'ente parco Madonia Angelo Pizzuto, e poi gli altri relatori, il dottor Luca Boccalatte, l'architetto Mauro Caliò, il dottor Fabio Grillo, il dottor agronomo Emanuele Rinaldi, che ringrazio particolarmente anche perché con lui che ha curato l'arredo a verde di Piazza Duomo in questi giorni, collaborando assieme a dei florovivaisti di Palermo che hanno allestito quello che voi avete potuto apprezzare. Ecco, parliamo del giardino di Piazza Duomo, è stato apprezzatissimo, sì. Io ho pubblicato le foto su Facebook, hanno avuto un successo straordinario. Oh, veramente un'iniziativa bellissima. Il sindaco le ha addirittura promosse a pagamento su Facebook, così sono arrivate anche oltre oceano. E poi volevo ringraziare il dottor Giuseppe Leto, sempre dalla Network APS, l'ingegnere Piergiulio Lauriano, il dottor Rosario Caravano dell'ANCI Comunicare, l'ingegnere Alessandro Braccati, che dicevamo prima dell'intervento sul carpooling, l'architetto Toni Cellura di Ecodomus e l'ingegnere Vittorio Pettonati. Quindi ci tenevo, insomma, a ringraziare tutti gli intervenuti di questo convegno che si è tenuto sabato scorso. Anche la mattina ci sono state, abbiamo accennato, delle iniziative, quella della scuola elementare. Quella di lunedì mattina, sì, sì. Gli alberi, anche di questa manifestazione abbiamo potuto apprezzare, sì, tantissime immagini con i bambini entusiasti. Sì, sì, ringrazio l'assessore Marinaro che era presente, e un altro grandissimo collaboratore di questa manifestazione che è il dottor Andrea Milazzo, anche lui naturalista, che è dell'Astrid, che insomma ha cercato di fare capire ai bambini quale fosse l'importanza di un albero e di sensibilizzare i bambini alle scuole elementari. Ci tenevo poi a ringraziare in particolare anche l'ensemble Tutte Donne Tranne Lui dell'Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia, che ci hanno regalato un bellissimo concerto sabato sera nella chiesa Santo Stefano Protomartire, che ripeto per chi non lo sapesse, la chiesa del Purgatorio, perché tutti mi chiedevano qual è questa chiesa. E poi insomma volevo ricordarvi l'apertura della mostra fotografica Terra da parte realizzata da Photonature e in cui potrete trovare anche delle opere lignee del maresciallo Roberto Giacchino. È un'installazione artistica della dottoressa Rosalia Liberto e le foto panoramiche di Cefalù di Giuseppe Terrasi. La mostra sarà aperta fino al 5 maggio, sia la mattina che il pomeriggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, sabato fino alle 21. A proposito, facendo un altro collegamento, Giuseppe Terrasi è un grandissimo fotografo ma anche un grandissimo giocatore di basket, e vorrei ricordarvi ancora una volta che CRM trasmette in streaming le partite dei playoff della Zanella Basket, di cui Giuseppe Terrasi, il noto fotografo, fa parte. Oltretutto lui è un giocatore figlio d'arte, perché il papà è stato allenatore e giocatore della squadra di basket. Enzo Terrasi, grande musicista anche. Anche un grande musicista. E passiamo al programma, previsto per domenica. Era previsto per domenica scorsa 21, però insomma. Quindi per domenica 28, chi ci ascolta in streaming, in replica o in podcast, e domenica 28 quindi si svolgerà quello che adesso. Ho controllato le previsioni meteo, dovremmo avere temperature a 26-27 gradi. Crema solare per chi vuol salire sulla rocca e cappellino. Allora sarà interessantissima l'escursione guidata sulla rocca di Cefalù, partenza 9:30 da Piazza Garibaldi. No, non si dorme domenica mattina, non si dorme. Vedo Santi Genovese che mi fa il segnale del cuscino. Assolutamente no, perché da non perdere perché avremo come accompagnatori il professor Antonio Franco, l'architetto Mauro Caliò e l'archeologo Emanuele Di Giampaolo, che tra l'altro, tra parentesi, ci illustrerà i concetti di bioedilizia. Giusto, sì, è stato ospite già del convegno insieme al dottor Mario Di Puma dell'Ente Parco delle Madonie. Diciamolo anche questo, grazie sì. Giacomo, perché qua ricordare tutto effettivamente può sfuggirmi qualcosa. E quindi vi dicevo, ci illustrerà i concetti di bioedilizia applicati nelle costruzioni dell'antichità, quindi anche nei siti archeologici che abbiamo sulla nostra bellissima rocca di Cefalù. Quindi questo alle 9:30, appuntamento. Sì, assolutamente da non perdere, perché il professor Antonio Franco tutti lo conosciamo, a parte che è il presidente del Consiglio Comunale, ma molti lo ricordiamo. È uno studioso. È professore al liceo classico, assistente universitario, ricercatore universitario, docente in più corsi per specializzati in lettere. Esattamente. Non vorrei sbagliarmi su termini tecnici, però il professor Franco autore anche di un bellissimo libro, Le radici e le pietre, che racconta la rocca, anche la rocca nei dettagli storici, davvero interessante. L'architetto archeologo che hai anche nominato, Di Giampaolo, è un laureato specialista verso l'Università dell'Aquila, ed è uno studioso davvero eccezionale, che ha in cantiere tantissime idee per quel che riguarda fruizione del territorio e la valorizzazione delle nostre dal punto di vista archeologico. Possiamo proseguire con il programma. Allora, quindi diciamo, l'escursione guidata sulla rocca alle 9:30 e poi avremo in Piazza Duomo a mezzogiorno la degustazione di prodotti biologici. Dobbiamo cedere la linea alla regia, dopo, così okay. Gran finale con a perfetto. Sorpresa. Era The Final Countdown, il conto alla rovescia finale, un brano bellissimo che ricorda, a parte tanti anni fa, ma a me ricorda anche la sigla dell'Astro d'Argento, di cui patron è Santo Genovese, al momento alla regia, e lo ringraziamo anche. E oltretutto è reduce da Castrocaro, ma oggi non lo facciamo parlare perché dobbiamo concludere la trasmissione. Allora, dicevamo quindi la degustazione dei prodotti biologici in Piazza Duomo a partire da mezzogiorno. Domenica 28 aprile. E avremo Rete Fattorie Sociali Sicilia, il Consorzio Produttori Madoniti, Sicilia del Gusto e Slow Food Caccamo e Mera Montisicani. Proseguiamo il programma di domenica 28 aprile con un giro sui monopattini elettrici Cefalù by Segway e noleggio Easy Walk a partire dalle 15:30 nel tratto che va dal Largo di Giorgio, per intenderci la Villa Comunale, a Piazza Garibaldi, e poi concluderemo questa bellissima domenica, si spera, di sole e caldo al tramonto al Lido Malik sul lungomare. Sì, perché il Lido Malik ha riaperto le attività e sarà un'ottima occasione per gustarsi anche un bellissimo tramonto sul lungomare. Un cocktail alla frutta, giusto per essere sempre in tema, e poi un bel tramonto sul lungomare. Sono quasi le 13, noi in genere chiudiamo la trasmissione attorno a questo orario, prima dello scoccare dell'una del dopo mezzogiorno, quindi partiamo con il ringraziamento assolutamente necessario a chi ha contribuito alla realizzazione. Assolutamente sì, quindi di nuovo un sentito ringraziamento al sindaco Rosario Lapunzina, all'assessore Laura Leonardis, a Erde Italia che ci ha dato il patrocinio, Angela Macaluso, consulente al turismo ed eventi del comune di Cefalù, a Nicolò Pizzillo con la KL Comunicazione che ha curato il progetto grafico del logo di Erdei, ad Angelo Maggio e Stefano Scalia della Turismo Idea SRL che hanno curato invece la segreteria amministrativa, e poi i main sponsor e poi non per ultimi i main sponsor che hanno reso economicamente possibile tutto questo, e cioè il Carlton Hotel Riviera, Villa Gaia Hotel, Lido Malik, Lido Poseidon, noleggio moto d'acqua Sea Rain Service, noleggio Easy Walk. Quindi un grazie particolare ai fratelli Giovanni e Salvo Cimino che da subito hanno creduto in questo progetto, oltre che miei carissimi amici. E poi volevo ringraziare anche l'ANCI, l'Ente Parco delle Madonie, l'European Geoparks Network e il Global Geoparks Network, il WWF Madonie, col professore Gioacchino Cannizzaro che è stato presente all'incontro di lunedì pomeriggio, Lega Ambiente, Eco Cefalù, Eco Domus, Associazione Alisei, Astrid Servizi per Natura e l'Ambiente SRL, Photo Nature, Print and Go, Network APS, Rete Fattorie Sociali Sicilia, Consorzio Produttori Madoniti, Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia, l'Associazione Sportiva Athletic Center di Cefalù che ci ha regalato uno spettacolo incredibile lunedì sera nella palestra del liceo artistico Diego Biancamata. A questo proposito ringrazio anche il dirigente scolastico, la dottoressa Giuseppina Battaglia, Cefalù by Segway, il CURS, Galileo, i florovivaisti di Palermo, cioè Galileo Garden, Pizzo Vivai, Verde d'Autore, Vivai La Franca. E poi Slow Food Caccamo e Mera Montisicani, Sicilia del Gusto, il Bar Portaterra, l'associazione Ama il Tuo Tempo e l'associazione Avuls, che praticamente hanno realizzato le bellissime borse che potete ammirare, eventualmente anche acquistare, all'interno della mostra fotografica Terra. Un grazie particolare di cuore va a Franco Turdo che ha realizzato lo spot di Air Day 2013 Cefalù, a Peppe Turdo che è il mio tecnico di fiducia e grandissimo amico, a Rosalia Liberto che è stata indispensabile per l'organizzazione di tutto questo, a Francesco Liberto che assieme a Rosalia Liberto hanno realizzato le borse in tela che potete trovare all'interno della mostra, e poi un grazie anche a Vincenzo Garbo, al consigliere Vincenzo Garbo e al dottor Benuccio Coco. Grazie a tutti. Noi sicuramente interpreti di tantissimi cittadini ringraziamo te per l'idea che hai avuto. Ti ringraziamo anche a nome di Angelo Arduino di CRM per essere stato ospite della nostra trasmissione. Grazie a voi per avermi invitato. Io non ho altro da aggiungere in questa trasmissione odierna, è stata davvero interessantissima. Un altro annuncio: se volete potete diventare fan della nostra pagina Facebook cercandoci sul noto social network e cliccando mi piace su CRM Happy Radio. Grazie a Santo Genovese che è stato in regia. Grazie a tutti voi che siete stati. E arrivederci a domenica 28 aprile con Hard Day continua. Ecco, domenica 28 aprile tutti sulla Rocca e a degustare, ad ammirare il tramonto. Il programma lo trovate nei negozi, nelle locandine. Ricordate, quello che c'era domenica 21 sarà domenica 28. Escluso il concerto di Giuseppe Mini.